per la piazza, un uomo un poco nano, la testa bassa andava e camminava piano. Ha sempre in tasca grandi capitali, fa affari solo con i miliardari. A un certo punto una statuetta gli fu scagliata con molta leggerezza, e lui attento verso i suoi elettori la prese in faccia, no, non nei coglioni. Gente si dilegua e Tartaglia è ripreso in quella scena, è sicuro, certo, è anche comunista, o forse Bondi tornato antifascista. Stia attento presidente ai suoi senatori, sono quasi tutti noti traditori, provengono dal PC ed hanno idee perverse, ma lei con il suo amore gli distruggerà le teste. Male, e l'Italia è rimasta tale quale. A un certo punto una statuetta gli fu scagliata con molta leggerezza, e lui attento verso i suoi elettori la prese in faccia, no, non nei coglioni. Di essere stato e di essere il miglior presidente del Consiglio che l'Italia abbia potuto avere nei 150 anni della sua storia.